gamba a gamba. Carogì, cosa sei commenti? Ah, ho capito. Sto provando, sai. Ah, ho capito. Vabbè, dai. A farlo vedere. Scommetto che stai andando da Roberto. Scommetto che stai andando da Roberto. Che sono contrario ovunque, se la cortesia di troppi, da quello che ho fatto. Ho capito, ho capito. Fate parlare i diritti d'autore, fate parlare. Allora, mi avete fatto un po' fuori, ma sono con un contratto. Fai bene, fai bene. Andiamo bene. Così almeno si fa anche una passeggiata oltretutto. Diciamo appena più forte del QRM. 7-8. Vabbè, diciamo che può andare, visto considerato che praticamente sei in macchina. Cosa hai detto? Non ho capito bene. Ah, ho capito, all'interno del palazzo, sì. Vabbè. Nella metropoli di Ottawa. Certo che sì. Senza piano di massa non è che vuole andare molto lontano. Comunque, si sa, lo sappiamo come funziona, no? nel camper. In effetti è così. Sì, beh, certo. Potrebbe andare meglio, certo, la macchina è un'altra cosa, quando c'era il tettuccio di lamiera è un'altra cosa. Appunto, è quello che stiamo dicendo, è quello. Il piano riflettente è molto importante, avere una massa adeguata, così con retrovisita non è un granché, però cosa ci vuoi fare? È fatta apposta per parlarci quando andate in colonna tutti i campionisti. Funziona, però io che tutti lo stesso, va bene. Già va bene, dai, già va bene. Per andare peggio è meglio che vada così com'è. Sì, quello che conta è sentirsi, certo, conta sì. Però non è che va molto lontano, come distanza non è che ne copre molto, Si sa, l'antenna sullo campo è un discorso, l'antenna sulla vettura invece è tutta un'altra musica. Questo qua parlavo con Claudio, quindi già l'hanno saputo piantare, dai, i primi. Sì, beh certo, Claudio non fa testo, perché Claudio sente qualsiasi modulazione, anche da distanze lontanissime, per cui in quella posizione dove si trova lui è meraviglioso, perché è molto in alto, dunque ha un'ottima recezione. Però si sa, non è solamente, non tutti abitiamo lì a 400 metri di altezza, ecco qual è il discorso. Beh, va bene, sì, certo che va bene, quando riusciamo a sentirci va bene, ma se ti allontani io non ti sentirò più, per il semplice motivo che io sono in una vallata praticamente. Io nella mia posizione sono a 135 metri sopra il livello del mare, ti puoi immaginare, in strada, davanti alla porta di casa, dunque sono già 90 metri più in basso addirittura del livello di Sassari. Se poi saliamo in alto, Sassari diventa anche 400 metri e anche di più in certe posizioni, soprattutto dove abita Claudio, lì i 400 metri li raggiunge tranquillamente sopra il livello del mare. Ok, ciao, ciao, Eugenio, alla prossima, ciao. Ascolto. Quando lo ricevo, tutti i nostri supporti del pugno. Assolutamente sì, che si è di sopra, lui è sotto. Ho capito, buona fortuna. Sono un collega del fratello, erano grandi persone, sempre disponibile. Sì, anche il fratello è sempre disponibile, alla grande. Fai, sempre qua. E adesso? Mi dicevo che questi giorni a mezzo di un'inizio, vediamo se qualcuno lo abbiamo. Partito nuovo, eh? Ho preso su una serie di fotono e da pochi, quindi da Milano, c'era sicuramente, potevo andare a Milano, quindi non sono esattamente competenti, di conseguenza. Partito arrivato qua pochissimo. Niente di, niente di. Arriviamo, c'è visto, 200 euro, guarda. Ci rimetto 100 euro, ma poi se ne va a andare. È andata così, mannaggia, aspetta. Vai, vai, è qua, non c'è problema. L'apparato è qua, bello, tranquillo. Intanto l'accendo per farlo scaldare. Non è nessun problema. A quanti è arrivato? Sì. Allora, l'USB, RSD, poi c'è dalla A, poi scende dalla A alla F alla G, quindi a Canari. Quindi dalla A alla F praticamente sono 4, 8, 12, 12, 16, 16, 200, 240. Poi la USB, LCD. Sì, sì, tutte le parti chiaramente, c'è anche l'FM. Ma certo, c'è anche l'FM. Funziona bene, no? No, sentivo che il cazzo per qualcun altro che mi stava parlando, ma io non mi sentivo perché mi spiego, era una prima, quindi dopo partito. Ah, ok, non era a casa. Sì, sì, anche poco fa ero in campo e stavo parlando con Giulio. Sì, funziona bene. Considera che l'apparato che ho in macchina va sul camper, esce con due fratte, è un baracchietto anche senza smitter, non... Ce l'ho qua l'apparato per il camper, non lo so piazzare. È omologato ovviamente, sì, sì, omologato, 40 canali. Ma quello che ho qua, questo micro radio qua, ha il coso, ha il printer, c'ha il display con i numeri, insomma è più bello. E poi mi erano stati aumentati i watt, e scegliono 8 watt mi sa tanto. Vabbè, il camper ce l'ha da casa l'impianto del CD, eh? Come da casa? Sì, sì, ho fatto altro che cambiare l'antenna, perché l'antenna originale è piccolina, sarà, 30 centimetri. Sì, sì, funziona discretamente, dai. Ti ricordo che ho parlato, io ero a Porto Torres, in giro dentro Porto Torres col camper e parlavo con Claudio tranquillamente su Sassari. Allora, che quello che hai acquistato? Quanto va a crescere? Quando lo vuoi provare, questo qua, così lo provi prima che mi accerti di tutte le cose. No, proprio anche perché io non sono di quelli che apre, guarda se ci sono uomini che parlano dentro. E così, io l'ho comprato, l'ho messo qua, gli ho attaccato l'antenna, la corrente e ci modulavo. E poi, vabbè, ho preso il input. No, sono altro discorso. Esce con 10 watt, regolabili, da 5 a 10, anche se nella scala c'è scritto da 0 a 50, però penso che dia 10 watt. Ma no, il Galaxy. Adesso mi hanno detto di aumentare un po' per farlo lavorare un po' meglio, sto uscendo con 15 watt, perfetti. Che strano, non è così basso per lo storico. E vi attenti la zona. Ma ci stiamo facendo bene, qua sta arrivando a 9. Di più analogico, alla lancetta mi piace di più, quindi a no, digitale non mi piace. Sbagliando, più sopprimere le lancette quando si muovono è una figata. Invece quello che hai registrato è sempre digitale. sì, sì, sì, sì, sì. E mi ha detto, lo conosce, l'ho quasi fatto. computer analogico. Puoi mettere anche i canali fissi, per esempio io ce l'ho messo sul canale fisso. Puoi eliminare, puoi adattare le frequenze mentre ti appaiono i canali normali, 10, 5, 15, poi invece di avere le frequenze mentre, capito? È molto disponibile a fare modifiche, capito? Metterti il 45, il 45 canale, insomma, ci se avete il microfono, supporta bene i microfoni amplificati. Sì, insomma, lo puoi modificare come vuoi. È per quello che non quello vecchio, non quello nuovo, non il 48 BSX. Quando c'è scritto Alan 48 BSX e sono il nuovo, non si fa niente. Ti seguo il capo dell'antenna per non avere sempre senza da lei, adesso li conosco prima con l'autore tanti anni fa, veniva proprio il furgone sollevava il braccio diciamo dalla cappotta qua, c'era un siciliano, era un verme, guarda. Cioè c'era una cretina, l'unica cretina mi ha rotto le scatole. che poi mio padre mi ha detto, non voglio visitare nessuno, stacca questa antenna, vai, fregate. E mi sentiva nel citofono, ma fino alle 3 del mattino, nel citofono, nel telefono. Dicevo, sì, ma io ho iniziato a mezzanotte, sono rimasto 3 ore fino alle 3 del mattino, tu alle 3 del mattino nel citofono. Ma allora fai apposta, cioè nel citofono alle 3 del mattino, chiedi, voglio dire, e questa fa, io ti sento, mi dai fastidio. E non mi ha fatto arrabbiare. Emiliano, non so se l'hai mai sentito, che Mudra ha proposto lo stesso. Abbiamo piazzato l'antenna insieme, io sono andato da sua, abbiamo piazzato, ho tutto a posto. Poi è entrato nel vicino, e sono venuto a schiera. E ho detto, Emiliano, guarda, io mi sto disturbando il televisore, questa persona è molto disponibile, Allora Emiliano, andati, io e Emiliano siamo andati, abbiamo controllato l'antenna e siamo accorti che c'era un amplificatore e l'antenna marcia. E ho detto, guardi, l'antenna e l'amplificatore vengono cambiati perché sono marci. Ma io a questo adesso non posso, anche perché il televisore si vede. Allora questo mio amico che è troppo in gamba, bravissimo, ha fatto una risposta, gli ho detto, guardi, c'è una cosa, proprio per evitare il problema. Siamo andati, abbiamo comprato l'amplificatore e l'antenna nuova, mi ha piazzato l'amplificatore e l'antenna nuova, il televisore, boom, stop, finiti i disturbi. Thank you. Antonio, c'è 31, diciamo. Antonio, c'è il baracchino a casa? In campagna c'è l'antenna, ho capito. Una volta ci piace l'antenna a casa, dovete modulare per forza tutti per lo stesso canale, se no è un problema. Nessuno, cambio canale 10, ma sono tutti in ascolto lì, non hanno voglia neanche di allungare la mano e schiacciare il mic, ma la sorte. Ma va a serate, ti vedi che stasera vengo fuori un po' più tardi, proprio la sera. Ma ci sono, fidati che ci sono. Restandomi la sedia. Avanti che c'è posto. Ancora buonasera, dottor. La parola magica è questa. Sorpedimi. Quale? Sorpedimi. Millo. Vedo, la parola magica era quella. Ma sai, io sono nuovo nella zona, qua non le conosco queste cose, quindi per me è tutto nuovo. È come se fosse cibi nuovo. Oh yeah. Avanti comunque, ancora buonasera. Qualcuno vuole venire avanti senza problemi. Questo è Mario Eugenio Pototore. Qual è il tuo nominativo a Bologna? Il mio nominativo di Bologna era California numero 2. Perché all'epoca ce n'era già uno in giro, quindi ce n'era uno nella zona di San Lazzaro. Però modulava talmente poco che così non ci davamo nemmeno fastidio, onestamente. E quindi la mia scelta è andata su California 2. Poi, ho pensato che era Mario come nome, ma alla fine era quello che ricordi due fatti. In zona tranquillamente con i cibi vecchi, se io mi dovessi risentire mi chiamo tutti con quella figura lì. Perciò niente, perché comunque adesso non credo che ci siamo presenti nemmeno in zona. A Bologna mi modulo, dovrei, se ci vado sicuramente mi modulo parecchio, ma sono curioso di vedere oltre che per perché sarà difficile? Sta tornando in voga la 27. Ma io me lo auguro, se sta, come si dice, c'è un piccolo ritorno, però in genere sta riguardo solamente le persone che come noi sono vecchie in frequenza, capito? Non vedo gente nuova che è messa a fare il fino per modulare, sono rari quindi. Anche se sarebbe bello ripopolare la 27 perché ritengo che sia una delle frequenze più belle e più libere che ci siano, cioè veramente. Io mi ricordo anche i tempi che furono quando si era appena finito il piratismo, diciamo così, della 27, appena si è entrati, diciamo così, in un minimo di legalità, si era comunque liberi, nel senso che si poteva dire, si poteva parlare di qualsiasi argomento, ecco, ma veramente poi. Ci stavano anche quelle ogni tanto. Vabbè, però sai, non è molto soltare, almeno non quello che pensavo io, sai, tipo saltavano subito dalla gente che è riuscita proprio in macchina con linea 200 e fatta anche lì, si stavano sotto casa per ore e ore, non si facevano più parlare, se non sentire palle. Vabbè, è giusto. Noi mi ricordo sul 12 eravamo una valanga, proprio una valanga di gente, era bellissimo. Poi purtroppo chi è morto, chi si è levato tutto, chi si è sposato, qua foto, e c'era anche la sede di CB, era grandissima, bella, dentro c'era il biliardino, la zona radio, era bellissima. Ma era l'associazione sede CB. Altri tempi, la foto c'era piena, mamma non si ce n'era, un'altra volta veniva male anche entrarci sul canale 12, il mitico canale 12, Porto Torres, bellissimo, bello, che tempi, veramente. Addirittura c'era un mio amico che aveva il 2600, una moto da enduro, si aveva piazzato un baracchino nella moto da enduro, nelle risate. Sì, sicuramente hanno fatto anche quello. No, guarda, te lo posso dire, incredibile, fantastico. Poi una Vespa, vabbè, un motocarrozzella era ormai passato anche di moda, però veramente, poi non parliamo dei portatili. Mi ricordo qui in Island, non mi ricordo se erano 23 o 40 grandi, quelli che sono proprio belli, con la rotellina, la terra bellissima. Io vedevo gente che era in città, tiravano ancora con gli amici, capite che parlava, usava come telefono, insomma, cosa fantastica, veramente. La venuta dei telefonini ha rovinato tutto, la venuta di questi telefonini iPhone, Android, maledetti, ha rovinato tutto, però anche la Midland si è aggiornata facendo questa app, la conosci l'app della Midland? Con la lampada da cosse, non mi aiuta la lampada da cosse. Eco 10. C'è gente che sta parlando sotto, Natale. Non c'è tutto questo dietro. Ah, già lo sento, Eugenio. Ma tu guarda veramente. Stavano litigando, c'erano questioni, 13, 15 persone, mi sembra. Che si litigavano, che si dicevano di cose di crude, sì, ma per carità. No, io ho modulato per un po' di tempo sull'11, il canale di gente che ha il camper. Ero conosciuto, perché adesso sicuramente blu, come scaricatore di porno, mi facevo chiamare così. E niente, per un po' di tempo ho modulato sull'11. Vita 11, io non mi piaceva della vita, non mi attirava più tanto, infatti poi l'ho anche cancellata l'applicazione. Ma guarda che come funziona, il problema non funziona, se tu vuoi entrare, perché come buttano giù, tu dici io. Gianfra, ci spostiamo sul 20. Hanno fatto il microfono Bluetooth, il mic Bluetooth che funziona sia anche sia nell'apparato che nel cellulare, ma c'è anche una mezza intenzione di comprarmelo, poi ho detto ma non mi piace, ti ripeto, cancellato tutto. A parlare con gli altri, poi vabbè, no, la voce si è bella per questo, e il gusto di arrivare, attenzione cari 10, in manica di morti, allungate le braccia e schiacciate la portante, adesso iniziamo a entrare, 6:30 o 7 iniziamo a entrare tutti quanti, che si sveglia, adesso stanno merendando. Prima entrava una che si faceva chiamare Unghietta, no, non me lo ricordo bene, dalla Corsica. Sì, entrava una Corsica. Come segnare, visto che io tre volte a vederla, lui quando c'è il tempo, quindi ci dovrebbe voglia, fa voglia. A me a casa via e via mi arrivava, me lo ricordo benissimo, 8, 9. Sì, la cosa che arriva tranquillamente qua, anche perché è libero, capito? Sì, è normale, no? No, no, sì, perfetto. Perfetto. Ah, beh, la distanza, quelle sono 30 km. Se ci sono, 30 km, non credo. No, non ci sono 30 km, sono 3 ore di attraversata da ghiaccio. Dai, quella cifra lì, vai. Come me lo dico o meno.